Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera e benvenuti a Smart City. Questa sera continuiamo a parlare del cosiddetto modello coreano, ovvero l'approccio con cui la Corea del Sud ha tenuto sotto controllo la diffusione dell'epidemia di Covid-19. Un modello fortemente basato sul tracciamento digitale dei movimenti dei cittadini grazie alle numerose impronte che lasciano i nostri cellulari, tracciati GPS, connessioni a Wi-Fi, connessioni Bluetooth e anche grazie ad altri dati quali le transazioni per mezzo di carte di credito e l'analisi delle immagini delle telecamere di sicurezza. Unitamente a un grande sforzo per effettuare tamponi a tappeto, l'incrocio di questi dati di spostamento dei cittadini ha permesso di ricostruire la diffusione dell'epidemia e di isolare in modo mirato i contagiati. Mentre, ecco, va aggiunto la proverbiale autodisciplina dei coreani che hanno preso molto sul serio il distanziamento sociale, anche quando non obbligatorio, ha fatto il resto. Di tutto questo abbiamo parlato ieri con Alfonso Fuggetta, CEO e direttore scientifico di Cefriel, è uno dei principali promotori dell'adozione di questo approccio anche in Italia. Alfonso Fuggetta è tornato a trovarci questa sera. Buonasera Fuggetta. Buonasera a tutti. Dunque Alfonso, ieri ci hai spiegato che molti pezzi della macchina informatica che bisognerebbe mettere insieme per poter adottare questo modello coreano già ci sono stati sviluppati a vario titolo da startup, aziende e quant'altro, bisognerebbe metterli insieme. Allora ti chiedo quanto tempo potrebbe volerci? Credo che dipenda molto appunto dalla selezione dei componenti che fossero già disponibili e poi bisogna sapere, non lo conosco bene tutti i sistemi come sono organizzati dal lato diciamo governativo ministeriale, quindi rispondere sarebbe un po' prematuro. Non credo che ci vogliano mesi, qualcosa che possiamo fare in tempi ragionevoli, tenendo conto soprattutto che non abbiamo solo il problema dell'emergenza adesso, del contenere il contagio. La cosa importante è anche capire come usciamo da Infatti. Questo che si chiama appunto il lockdown, per evitare da un lato di ricascarci e dall'altro per dare una sicurezza, una tranquillità maggiore a tutti noi che vorremmo tornare il più presto possibile a una vita, se non normale, quantomeno più vicina a quella che la nostra normalità. Quindi questa strategia potrebbe essere una strategia su cui lavorare adesso, che potrebbe essere pronta diciamo per la fase calante dell'epidemia, anche perché nel momento di picco dubito che si possa fare a meno dell'isolamento, perché anche inseguire questi contatti quando sono troppi poi diventa, immagino, più difficile, non magari dal punto di vista informatico ma magari dal punto di vista proprio della gestione. Quindi più avanti la vedi come una strategia applicabile? Allora, ripeto, io rispondo da informatico, sì, certo. Quindi saranno poi sanitari che a capire, che devono dire che quanto deve durare il lockdown e così via. Se i sanitari dicono, come hanno detto, credo, è apparso in diversi articoli scientifici, che l'identificazione tempestiva dei possibili contagiati è utile, io da informatico rispondo, questo si può fare e si può fare in tempi non lunghissimi. Perché appunto esistono già pezzi di software fatto, comunque non si tratta di software fantascientifico, è qualcosa che si può realizzare in tempi ragionevoli, sfruttando le tante intelligenze, le tante start-up e aziende che esistono in Italia, e quindi se dal punto di vista epidemiologico serve, si può fare e si può fare in tempi non lunghi. Ostacoli ne vedi? Quali potrebbero essere? Sicuramente vanno precisati bene, disciplinati tutti gli aspetti relativi alla privacy. Ci sono delle norme che già aprono degli spazi per fare queste cose, però poi vanno, anche qui i giuristi devono verificare se servono atti normativi di qualche tipo per autorizzare e meglio disciplinare questo tipo di attività. Da un punto di vista, diciamo, poi di adozione, è chiaro che bisogna definire un modo, anche una modalità di comunicazione e di coinvolgimento dei cittadini, tale per cui loro siano invogliati ed aiutati a utilizzare questo tipo di strumenti e quindi si possa raggiungere la massa critica necessaria per poterli rendere effettivamente utili. In Corea è andata a ruba una app che si chiamava Corona 100M che segnalava a chi la possedeva sul cellulare la presenza di soggetti infetti nei dintorni. Ti sembra qualcosa, come dire, che in Italia, questa è un'opinione, diciamo, da cittadino che ti chiedo, è qualcosa che in Italia vedresti? Adesso credo che le cose devono essere fatte con intelligenza e con attenzione. Queste cose le deve fare l'istituzione, avendo a cura di intromettersi il meno possibile nella vita dei cittadini e mirando solo e soltanto alla protezione della loro salute. Quindi questo tipo di informazioni non dovrebbero essere divulgate in modo così, diciamo, inappropriato, perché poi si creano invece dei fenomeni sociali che non sono accettabili. Ecco, naturalmente Alfonso Foggetta sottolinea e giustamente ci tiene a rimanere sul suo terreno e a sottolineare quali sono le implicazioni di carattere tecnologico, informatico e quant'altro, ma questo approccio naturalmente poi ha altre implicazioni, non solo tecnologiche. Per esempio, i tamponi bisogna essere in grado di farli nelle quantità richieste, insomma ci sono tutta una serie di altri pezzi che devono andare a posto, ma il messaggio mi sembra che sia, dal punto di vista tecnologico abbiamo le capacità, le competenze, un certo numero di pezzi già ci sono e quindi insomma si può fare in settimane. Sì, questo direi proprio di sì. È importante proprio per quello che stavi dicendo, cioè per il fatto che ci sono tante diverse componenti da comporre, che ci sia una volontà forte, una capacità, si usa sempre questa frase, ma è vero, di fare squadra, cioè di mettere insieme tutte le competenze e i contributi necessari per far sì che soluzioni di questo tipo possano essere messe a disposizione del nostro paese in tempi rapidi. Squadra di cui devono far parte tutti i cittadini, evitando in questo momento contatti sociali inutili. Grazie Alfonso Foggetta. Grazie a te. Bene, cari ascoltatori, ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento a domani. Buona serata a tutti voi.